Gigi. Gigi, sono dal dentista e ti ascolto anche qui. Aggiusto il canino. Con Gigi D'Agostino. Benvenuti nel nostro giornale. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura. Ma la vostra mente viaggia sicura. Ciao Gigi, sono Simone dalla provincia di Venezia. Mi metti una canzone del tipo lento violento? Tipo? Del tipo lento violento. Poi? Capito come? Gigi D'Agostino ringrazia a tempo Emilio My Dream, Ellie da Trento. Capito come? Ovvio. È come se tutto fosse strano, Aria. È come se tutto fosse strano, Aria. Sulle mani. È come se tutto fosse strano, Aria. O è come se tutto fosse strano, Aria. Sulle mani. Per Gigi D'Agostino, Aria. Per Gigi D'Agostino, sulle mani. Area per Gigi D'Agostino, sulle mani. Ciao Gigi, sono Giobbe. Vorrei dedicare ad Aldino The Riddle, perché oggi, o ieri, o l'altro ieri, era il suo 21esimo compleanno. Tanti auguri, Tamarro Bizzarro. Auguri. Sono Maisy del forum gigidagostino.com. Mando un saluto alla nostra Gigi's Family. Grazie ragazzi per quei momenti struggenti. Ci vediamo il 18 a Milano. E questo è chiaro. Fammo girare Bolero. Roba grossa. In che senso? E... Vivo la vita ad occhi chiusi per poterla sognare diversa, per immaginare una persona al posto di un'altra, per sentirmi felice come non riesco ad essere. E la tua musica mi aiuta. Grazie Gigi. Alice. Il mio cuore, dopo un anno, batte ancora per te. Quando ti vedo, re Magno Como, statua d'ottono, ove la vita né spirito non ricorre. Che dici? Oh, io leggo quello che ho scritto, eh. Dedico con il nastro rosa. Chi è questo qua? Marco da Miraflowers. Sì, vabbè. Roba dei Mirafiori. We'll be right back. cammino di Gigi D'Agostino. Ama sempre, come se più tardi dovessi odiare. Tullio. Gigi, suonami il lento violento man, Rugiada. Rosy, che ama Ale. Cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Prendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Va bene che... Però... Gigi, continua a spaccarmi la testa con il tuo lento violento. Ne ho proprio bisogno. Suonami Cambio Casa. Linda da San Giacomo. La canzone Cambio Casa. Voglio dedicarla al mio papà, Giovanni Paolo da Sondrio. No, vabbè. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose. All'orizzonte, il tempo, il modo di vedere. Cambio posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno come me. E stasera do lavare il mio vestito per l'amore. Cambio donna e cambio umore stasera. E stasera voglio uscire, che mi faccia. Yeah. casa, da troppo tempo parca certa, e poi cambiare casa, come cambiano le cose, è così. Musica degna. Prima ti bacia e dopo ti legna. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai e poco sta cassa. Sono solo, solo il suono del mio passo, anonimo. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. L'uomo sapiente, per tutti quelli che come me amano guidare. Lorenzo da Mantova. Io so poco, ma penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente. L'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente. successione dei fenomeni. Tanto, poco, niente, so molto poco, anzi, niente, l'uomo saliente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo saliente, è fino. L'uomo fino, e come Aristotile, chiaramente le cura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. La colonna sonora della mia vacanza a Rimini la scorsa estate. E ora ascoltandoti mi sembra di rivivere ogni fantastico momento. Vex da Pescara. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Potete dire quello che volete a chi volete. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Sulla frequenza della benevolenza M2O. Musica, poesia, melodia. Il cammino di Gigi D'Agostino ti porta sulla retta via.

cammino di Gigi D'Agostino è come l'orbita che gira piano, è come il sole che scalda un casino. Anonimo. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. A volte è scontrosa, a volte è più dura, ma la vostra mente viaggia sicura. Sono Epic dalla Repubblica Ceca. Voglio dedicare solo un sogno ad Akiko, una ragazza fantastica. So che il tempo varia, ma di te ho bisogno. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io vissuto sempre con te. Gigi D'Agostino, musica che unisce. Gigi, vorrei dire a mia madre Liliana di prendere le valigie e tornare a casa. Fabri da Serole. Like a river that goes to the sea, this is the way that it happens.

Officina emotiva. Sabato 24 febbraio 2007, ore 22. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca La Fattoria. Brescia, Asher, Brescia. Ci vediamo lì. Gigi D'Agostino, mica noccioline. Gigi D'Agostino ringrazia a tempo Irma Di Vasto, Paola da Matera. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao Gigi, sono Francesco di Scandiano. Mi sono perso nell'universo. Mi puoi aiutare tu a ritrovare la strada con la canzone Non so dov'è, però lei c'è. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è. Mi porta su, non torno più. Non torno più.